Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 20 settembre, solo in regione Sorto alle 6.52, tramonterà alle 19.08. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. La guerra non è stata ancora vinta, ma i progressi ottenuti sul campo fanno ben sperare, perlomeno sul contenimento della cimice marmorata asiatica, che, almeno per quanto riguarda i danni ai frutteti, quest'anno sembra un po' in ritirata. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare ad un'altra lotta, quella contro il mal dell'esca nei vigneti, dove si chiede la collaborazione dei vignaiuoli. Nella rubrica dedicata si spiega invece come non tutte le uve siano ammesse per la produzione di vino, e in quella dell'orticoltura le raccolte di questo mese con i consigli pratici per la conservazione invernale delle erbe aromatiche. Un insaccato con i prodotti dell'orto per l'inverno, questo è il pestat, presidio slow food, tipicissimo della nostra terra, e poi tutte le torte, in particolare la Dobostort, che fa grande anche la nostra pasticceria in Europa. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una nota di climatologia locale, il proverbio friulano della settimana, chiudono la puntata. La guerra non è ancora stata vinta, ma l'esito di certe battaglie fa ben sperare. Stiamo parlando della lotta contro la cimice marmorata asiatica, che tanti danni ha fatto nelle nostre campagne. Lo facciamo con Giorgio Malossini, tecnico dell'ERSA. Cominciamo dalla arcinota Vespetta Samurai, che è stata lanciata anche nelle nostre campagne e dovrebbe parassitizzare le uova della cimice. Come è andato? Dopo il cambiamento della normativa si sono potuti effettuare dei lanci in 50 siti in tutta la regione per due volte durante la stagione, quindi un lancio è stato effettuato da giugno e un lancio i primi di luglio. È vero, la battaglia sta andando avanti, molti produttori riportano un calo di danni. A cosa può essere dovuto questo fatto? La Vespa Samurai è stato fatto un tipo di lotta biologica di tipo inoculativo, quindi piccole quantità di esemplari lanciati in questi siti, però distribuiti in tutta la regione. Per vedere i risultati di questi lanci, probabilmente non si vedono già quest'anno, ma si vedranno i prossimi anni. Le cimici comunque sono calate di numero, come mai? Sì, sono calate ed è una tendenza che sta continuando fortunatamente dal 2019, dove nella parte proprio focolaio, dove era stata trovata in grandissima parte la cimice con fortissimi danni insostenibili per i produttori. Stiamo parlando del Codroipese. Del Codroipese, Medio Friuli. Quest'anno invece la diminuzione è ancora molto più accentuata rispetto agli anni scorsi e effettivamente molti produttori che hanno già raccolto fino al momento riportano un danno decisamente inferiore rispetto agli altri anni. Ha conquistato altri territori, si è espansa ulteriormente in regione la cimice? Sì, ormai diciamo che dal 2018 è presente in tutta la regione, solo che pian piano i bordi più esterni della regione, essendo arrivata dopo la cimice, è aumentata poi nel tempo. E si sono svegliati anche altri antagonisti naturali, quali? Vi è intanto la presenza di Trisolcus naturali autoctoni, che non sono quelli alloctoni, poi vi è la presenza ad esempio dell'Anastatus bifasciatus, che si trova in quantità ancora piccole, e poi è importante anche la sinergia con i predatori, quindi ragni possono predare, le formiche, gli uccelli, sono riportati proprio produttori che vedono gli stormi che mangiano le cimici, i tacchini. Quali altre battaglie state preparando? Negli anni si è fatto tanto per cercare di migliorare anche i trattamenti, quindi fare trattamenti solo quando vi è presenza con determinate molecole, poi l'utilizzo per i frutticoltori delle reti. L'unica strada però per vincere questa battaglia rimane sempre la lotta biologica. Secondo qualcuno la cimice si è già modificata anche nel suo aspetto o ci sono altri tipi di cimici in arrivo? Non sono ancora arrivati altri tipi di cimici, si attende qualcos'altro tipo pupilla japonica, che non è una cimice, ma speriamo che non arrivi, ecco, arrivi più tardi possibile. E quali sono ancora i rischi che dobbiamo affrontare questa stagione, sempre parlando di cimice? Bisogna attendere ad esempio le varietà tardive di melo, ad esempio le Fuji, le Pink Lady, bisogna vedere come procederà lo spostamento dalla soia in poi, oppure anche il kiwi è una cultura che potrebbe essere a rischio. Il mal dell'esca è uno degli spettri per i viticoltori e ci sono delle novità. Ci dice tutto Cristina Michelloni per la rubrica del Bio. È da un po' di anni che ne parliamo di mal dell'esca, anche proprio in questa rubrica. Il problema rimane, anzi aumenta, diventa anche economicamente sempre più impattante, sia sui vigneti biologici ma anche su quelli convenzionali. La cosa che rende il mal dell'esca in qualche modo speciale e più difficile da gestire è che non si tratta di un patogeno la cui presenza automaticamente induce i sintomi sulle piante e c'è un prodotto, una tecnica che lo può controllare. Invece si tratta di un complesso di microrganismi che in specifiche condizioni, leggisi clima, tipologia la varietà, il terreno, la gestione effettuata sul vigneto, porta la pianta a esprimere i sintomi. Sintomi che possono andare dalla tigratura sulle foglie fino al totale collasso della pianta, quindi alla perdita completa non solo della produzione di quell'anno ma anche delle altre successive. Tanto per raggiungere il mistero alla già misteriosa situazione, i sintomi possono sparire di anno in anno, ovvero che posso avere un anno in cui una pianta è sintomatica, poi per uno, due, tre anni non esprime più e poi di nuovo esprime questi sintomi. Però ancora i chiari meccanismi, le cause, le conseguenze e quindi i rimedi non sono così chiari e noti. Quindi ci sono proprio il grado di complessità di questa situazione porta i ricercatori che lavorano già da decenni appunto su questa tematica ad aver bisogno di una casistica molto ampia che in un vigneto sperimentale o pochi vigneti sperimentali non si possono ricostruire e quindi in questo momento stanno chiedendo la collaborazione dei viticoltori in tutta Italia in modo da fornire loro i dati dei propri vigneti. Chiaramente il dettaglio dei dati che riceveranno non sarà elevato quanto quello di un vigneto sperimentale o di una prova di laboratorio, però è quello che si chiama a compensare con i big data, ovvero l'idea è avere tanti dati da tantissimi viticoltori con casi molto diversi, magari non precisissimi, però poi un bravo statistico è in grado di tirarne fuori ciò che serve. Quindi è una chiamata, diciamo così, all'aiuto, una chiamata alle armi, non mi piace per questioni di non siamo così guerrafondai, però una chiamata, una richiesta d'aiuto a tutti i viticoltori proprio in questo momento, perché i sintomi del mal dell'esca si esprimono al meglio e quindi si possono rilevare più facilmente a cavallo della vendemmia, poco prima e poco dopo, quindi o è adesso o dobbiamo aspettare l'anno prossimo. Tra l'altro partecipare a questo lavoro è abbastanza semplice, si usa un'app che in Friuli si conosce già per diversi altri motivi, che è For Grapes. Basta andare sul sito dell'Unione Italiana Vini, vi lascio anche alla pagina Facebook della trasmissione il link, e capire come si può partecipare. Non porta via troppo tempo e io credo che sia una mezz'oretta ben dedicata per togliersi i problemi degli anni a venire. Vi ricordo anche che è a disposizione un sito, vi lascio anche questo alla pagina Facebook della trasmissione, dove ci sono tutte le foto dei sintomi, quindi vi può aiutare a imparare a riconoscerli e quindi a gestire meglio sia il vostro vigneto ma anche il questionario dell'Unione Italiana Vini. Da non tutte le uve si può fare il vino, o meglio si è autorizzati a farlo, come ci spiega il professor Roberto Zieroni. Nel precedente appuntamento abbiamo visto come la Unione Europea ponga dei vincoli alla produzione del vino in termini di varietà. In particolare soltanto quelle ottenute dalla vitis vinifera o da ibridi che recentemente sono stati proposti possono essere destinate alla produzione del vino. La vitis vinifera però ha tutta una serie di varietà che per loro caratteristiche compositive, per loro caratteristiche organolettiche, sono definite come uve da tavola. Ora, queste uve da tavola non possono essere vinificate, possono essere soltanto ottenute eventualmente dei succhi o fermentate per la produzione dei distillati. Allo stesso modo, tutte le varietà appartenenti a specie diverse dalla vitis vinifera o agli ibridi possono essere ugualmente coltivati, utilizzati per il consumo fresco o per la produzione di succhi o per la produzione di distillati. Nell'ambito poi della Unione Europea abbiamo delle deroghe a questa regola generale che fanno riferimento alle varietà da tavola di vecchia utilizzazione, pensiamo ai moscati o alle malvasie aromatiche, che possono essere ugualmente vinificati per dare dei vini anche molto famosi, ad esempio come l'Asti Spumante. Quando poi il viticoltore nell'Unione Europea è intenzionato di impiantare di nuovi vigneti, ecco che esiste una normativa molto rigida che prevede che i vigneti possono essere impiantati soltanto per sostituire dei vigneti obsoleti o non più economicamente convenienti e soltanto una piccola parte della produzione può essere incrementata facendo riferimento eventualmente a delle quote, diciamo, di abbandono di vigneti da parte di agricoltori che sono intenzionati a non essere più viticoltori. Un ulteriore vincolo comunitario è che una volta che viene autorizzato l'impianto, tu puoi scegliere soltanto all'interno di varietà che fanno riferimento ad un elenco di varietà raccomandate o di varietà autorizzate, che sono quelle che è stato verificato sperimentalmente dare in quei territori le migliori caratteristiche qualitative al vino. Fin dal momento della vendemmia, però, la Comunità Europea pone dei vincoli alla produzione del vino. Infatti, tutta l'area produttiva è organizzata in fasce climatiche. L'Italia è in massima parte nella fascia climatica C2 e C3B, e quindi le uve, per essere destinate alla produzione del vino, devono garantire una gradazione alcolica potenziale minima di 8,5 o 9 gradi. Quindi tutta la legislazione europea è una legislazione cosiddetta positiva, cioè si può fare soltanto quanto sta scritto. Quanto non sta scritto non è autorizzato. A differenza di altri paesi extracomunitari, ove la produzione del vino è molto più libera e quindi il vantaggio competitivo di essere prontamente sul mercato anche utilizzando ulteriori innovazioni da un punto di vista tecnico, per quanto riguarda i produttori europei, ad oggi viene a mancare. Oggi sarà Bosco che ci cura la rubrica dell'orto, ci parlerà delle raccolte di settembre, con poi qualche consiglio per quanto riguarda le erbe aromatiche che si trattano appunto in questo periodo. Settembre appunto si trova tra l'estate e l'autunno e quindi in questo periodo troviamo sia gli ultimi raccolti estivi, troviamo zucchine, cetrioli, le melanzane, i peperoni, ancora gli ultimi pomodori. Però possiamo trovare anche i primi raccolti autunnali come i primi cavoli e i primi finocchi, ma poi troviamo comunque porro, sedano, sedano rapa. È un periodo ottimo anche per le raccolte di radicchi, di insalate di vario tipo come le endivie, le cicorie, ma anche biete, spinaci, e troviamo tra l'altro numerosi legumi come i fagioli, i fagiolini. Ci sono poi anche altri ortaggi invece che sono stati raccolti nei mesi immediatamente precedenti, ma che possiamo continuare a trovare sia nei negozi, ma che possiamo conservare nelle nostre dispense, nelle nostre cantine, grazie alle temperature che piano piano stanno scendendo. E tra questi ortaggi troviamo ad esempio l'aglio, lo scalogno, la cipolla e tutti i vari tipi di patate che ancora comunque si stanno raccogliendo. E settembre però permette anche la raccolta delle ultime erbe aromatiche, appunto, tra cui troviamo il prezzemolo, il basilico, la maggiorana, il timo, salvia, rosmarino. Spesso proprio in questo periodo ci si dedica alla loro essiccazione per poterle poi conservare durante tutto l'inverno e fino al prossimo possibile raccolto, che di solito risulta in primavera. È importante che queste erbe vengano raccolte prima della fioritura, tranne che per alcune come l'origano o la maggiorana, che invece vanno raccolte in piena fioritura. Per poterle poi essiccare al meglio, la raccolta va fatta al mattino, non troppo presto, in quanto adesso è un periodo umido e si deve asciugare questa acqua che risulta esserci sopra le foglie, ma neanche troppo tardi perché il sole comunque scalda e quindi ci sarebbe troppo caldo. Una volta raccolte vengono pulite, poi vengono asciugate su uno strofinaccio e lasciate ad asciugare o all'ombra in un luogo riparato, oppure anche possono essere essiccate all'interno del nostro forno comune in cucina. Queste erbe aromatiche così sono poi pronte per essere conservate per tutto l'inverno ed utilizzate per insaporire le nostre pietanze. Tra i prodotti tipici, anzi tipicissimi della nostra regione, la nuova rubrica che ci cura Adriana Del Fabbro, oggi parliamo del pestato, uno dei primissimi presidi slow food. Si tratta di un insaccato composto da tutti i profumi dell'orto che, dopo essere stati triturati, vengono mescolati con una significativa quantità di lardo macinato prelevato dalla regione dorsale del maiale, privato della parte molle di grasso in un rapporto di peso di circa 50-70% di lardo, 50-30% di verdure trite. L'utilizzo dei vegetali ricchi di sostanze polifenoliche permette di preservare il grasso dall'ossidazione. Questo insaccato tipico della zona di Fagagna da sempre veniva realizzato in molte famiglie friulane in occasione della macellazione dei suini per poter conservare i profumi dell'orto. Nel periodo invernale utilizzarli come base per diverse pietanze, minestroni, minestre, carni, frittate, verdure cotte e saltate in padella. È dunque un insaporitore che utilizza il lardo macinato come conservante, assieme al sale 3% circa, pepe e cannella. Il pestal viene conservato in cantina o in locali con una temperatura non superiore ai 20 gradi e una umidità tra il 70 e l'80%, appeso come i salami, dove subisce una riduzione di peso pari al 30-40%. La conservazione può durare anche più di un anno, mantenendo le qualità organolettiche originali del prodotto e anzi diventando sempre più gradevole all'olfatto. La stabilità del prodotto è influenzata in maniera determinante dal lardo suino, che svolge un ruolo attivo mantenendo le verdure in un ambiente anaerobico, principio simile a quello sfruttato per le conserve sott'olio. La muffa che cresce sul budello contribuisce alla naturale maturazione del pestaat e rallenta il fenomeno dell'ossidazione del grasso. Nell'Orte Cusine di Uere, pubblicato dalla Società Filologica Friulana nel 1942, il pestaat viene citato due volte. In seguito anche la contessa Giuseppina Perusini Antonini, nella sua edizione del 1963 del libro sul mangiare friulano, menziona il pestaat come ingrediente della iote. Nell'84 il pestaat Furlan ha un proprio spazio con ricetta anche all'interno della pubblicazione promossa dalla Camera di Commercio di Udine Cucina e Vini Friulani nel Mondo. Dopo essere stato inserito nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali nel 2006, e ora è un presidio slow food. Da qualche anno si è diffusa l'abitudine di conservare il pestaat in via alternativa all'insaccato attraverso l'utilizzo di contenitori di vetro in cui il prodotto viene confezionato come una crema previo lo sgrondo dei liquidi in eccesso. Oggi Roberto Zotter ci spiega come, in fatto di torte dalla valenza internazionale, anche la nostra regione con la Dobostort abbia un suo cavallo di battaglia. In alcune trasmissioni abbiamo già visto che la seconda metà dell'Ottocento si caratterizza in Europa per la nascita di torte da pasticceria, molte delle quali vengono anche chiamate con il nome del loro inventore e quasi tutte, con l'eccezione della Saint-Honoré, possono essere definite torte da credenza, perché dovevano durare a temperatura ambiente alcuni giorni in quanto i frigoriferi non esistevano ancora. La torta Saint-Honoré, con due basi di pasta, parte centrale in creme e bignè caramellati sopra, prende il nome dal patrono dei pasticceri francesi, Onorato di Amiens, o Saint-Honoré, ed è nata in Francia nel 1846 dall'abilità del pasticcere Schibust, che ha dato il nome non alla torta ma alla farcitura, la famosa crema Schibust a base di crema pasticcera alleggerita da meringa. In Italia abbiamo pochi esempi di torte che abbiano avuto successo al di là del ristretto ambito locale. Potrei citare la torta Paradiso Vigoni di Pavia del 1878, la torta 900 di Lieverea o la torzionata di Lodi del 1885. La maggior parte delle torte di successo internazionale in questo periodo nasce in ambito mitteleuropeo, come la Sachertorte del 1832, la romantica Rigoianci o la Pischinger. Un'altra torta divenuta classica nelle pasticcerie di Gorizia e Trieste è l'ungherese Dobos Torte, formata da 6 strati sottili di pâte à biscuit farciti da una crema al burro e al cioccolato e ricoperta sulla sommità da uno strato di caramello che la caratterizza. Il commerciante Josef Dobos inventò la torta che porta il suo nome nel 1884 e la presentò all'Esposizione Nazionale Ungherese del 1885, dove anche fu assaggiata dall'imperatore Francesco Giuseppe e dalla moglie Sissi. La ricetta ufficiale rimase segreta per molti anni, anche se Caterina Prato la riporta già nell'edizione italiana del 1892 del suo manuale. Per realizzarla ha fatto una pasta con 6 tuorli mantecati con 120 g di zucchero, unite 6 albumi a neve e incorporate 120 g di farina, cuocete in 6 cerchi da 22 cm per 8 minuti a 200 gradi. Per la crema portate a 121 gradi uno sciroppo di 150 g d'acqua con 450 g di zucchero e versate a filo sbattendo su 12 tuorli montati. Sempre montando aggiungete a fiocchi 500 g di burro ammorbidito, poi 300 g di cioccolato fondente fuso intiepidito ed un cucchiaio di cacao amaro in polvere. Fate rassodare in frigo e con questa crema farcite 5 dischi di pasta sovrapponendoli. L'ultimo dovrà essere lucidato con un sottile strato di caramello. Su quest'ultimo è indispensabile creare delle tracce per facilitare poi il taglio della torta stessa. Buon appetito! Con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento poco attivo ai prezzi stazionari venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,20 e 16,40 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo, con peso specifico 60-63, tra 14,70 e 15,20 e il frumento tra 17,50 e 17,80. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 40 centesimi, il frumento di 70 centesimi il quintale. Domanda sofferente nel settore caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 6,05 e 6,35 euro al chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30. Per quanto riguarda il prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, la commissione della Camera di Commercio di Pordenone e Udine lo ha quotato franco stalla a 36 centesimi il litro più premi qualità e IVA. In calo il settore dei foraggi, dove il fieno Mazzengo di pianura e l'erba medica vengono pagati in media tra 19,60 e 20,20 euro al quintale IVA esclusa, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata oscilla tra 12,10 e 12,60 al quintale. Infine, nel settore degli avicunicoli si segnalano ancora prezzi in ripresa rilevati dalle quotazioni dell'Alta Italia, dove i poli a terra vengono pagati tra 1,06 e 1,08 euro al chilo IVA esclusa, i tacchini maschi tra 1,27 e 1,29, le anatre tra 2,25 e 2,29, le faraone tra 2,10 e 2,20, i conigli oltre 2,5 kg tra 2,05 e 2,11, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 16,80 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Settembre finora si è presentato con caratteristiche decisamente estive e scarse precipitazioni, limitate solo ai primi giorni del mese. Le temperature a partire dal giorno 4 sono state costantemente oltre la media, specie in questa seconda decade, con i valori medi di 5 gradi superiori al normale. E in alcune giornate di questa settimana sono stati registrati dei nuovi record per il caldo persistente. Anche le temperature massime sono state elevate, con diverse giornate oltre i 30 gradi. Il picco è stato misurato giovedì scorso a Palazzolo dello Stella con quasi 34 gradi. A causare questa fase di caldo prolungato è stata la presenza costante dell'anticiclone di origine africana, accompagnato nei bassi strati da persistenti correnti nordorientali, che hanno contribuito a riscaldare l'atmosfera vicino al suolo e al mare. Ha soffiato spesso una vora piuttosto tiepida. Ora lo scenario inizia, seppure lentamente e progressivamente, a cambiare. A partire da domani, l'atmosfera diventerà via via più umida, con un aumento della nuvolosità, e saranno già possibili delle piogge sparse, forse anche dei rovesci temporaleschi. Martedì e mercoledì avremo probabilmente nuvolosità variabile, con piogge sparse intermittenti e qualche temporale, specie sull'alta pianura e sulla fascia prealpina. Le temperature minime intorno ai 17 gradi in pianura e sui 20 gradi sulla costa. Le massime fra 23 e 25 gradi. Da giovedì fino alla fine della settimana è previsto l'avvicinamento di una profonda depressione atlantica che probabilmente porterà a un peggioramento abbastanza marcato con piogge intense e temporalesche, accompagnate anche da venti meridionali sostenuti, e successivamente si delinea anche un forte calo delle temperature. Dopo tante belle giornate, l'autunno sembra quindi arrivare in maniera piuttosto brusca, ma come sempre vi invitiamo a seguire l'evoluzione della situazione meteorologica e gli aggiornamenti quotidiani delle previsioni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Se a San Maurizio al fas seren, vintos l'unvier coven, ovvero se il giorno di San Maurizio, il 22 settembre, sarà sereno, avremo un inverno ventoso. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.